bella in coro me dalla mortalia tura o tu che in seno agli angeli salisti bella e pura lo sguardo a me tapino che senza Dio del destin che senza nome ai misero chiedo levando ai misero la morte di incontrar Leonora Dando ai misero la morte di incontrar Leonora mia pietà del mio penar soccorrimi pietà di me. 请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream， 欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così fu andarsene poi via. Questa melodia, inno della la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Fino al mattino tra i canti un gran mulino, lì è nato il mio destino.

tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. Capito mai